Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica eLife e coordinato da scienziati dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Sant'Anna di Pisa e dell'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, il Politecnico di Lausanne, ha segnato un importante passo avanti verso la realizzazione di protesi capaci di restituire ad un amputato la stessa sensibilità e capacità di manipolazione che sono tipici, diciamo, di un arto naturale. Una strada ancora lunga, ma insomma veramente questo obiettivo si avvicina. Perché? Lo dico perché per la prima volta al mondo un amputato ha potuto percepire la texture e la differenza tra superfici lisce e rugose in tempo reale, come se non avesse perso l'arto, utilizzando un dito artificiale connesso direttamente ai nervi del braccio. Ne parliamo con Calogero Oddo, che è ricercatore della scuola Sant'Anna di Pisa e che è in linea con noi. Buonasera Oddo. Buonasera a tutti. Allora, tatto bionico, l'abbiamo visto nei film, no, degli anni 70-80, e qui invece siamo veramente vicini. Come funziona più o meno, insomma? Noi abbiamo sviluppato un dispositivo che integra dei microsensori in silicio, come dei microchip, dentro un dito artificiale che è costituito da un osso che poi al cui intorno si arrotola questa scheda e poi coperta da una struttura polimerica, una pelle artificiale. Ecco, e questi microsensori che stanno dentro la pelle artificiale convertono l'esperienza tattile meccanica in una sequenza di impulsi che vengono rilasciati sul nervo. Quindi ci sono proprio dei, diciamo così, dei fili con i quali voi avete collegato questa elettronica ai nervi del braccio, che erano interrotti, erano stati evidentemente appunto tagliati, e questi nervi trasmettono una sensazione che è la stessa che riceverebbe, ecco, mi sembra di aver capito questo, cioè il soggetto percepisce proprio le stesse sensazioni e le riconosce come sensazioni tattili, non deve imparare, addestrare a riconoscere qualcos'altro come una sensazione tattile. Sì, esatto, il tema è questo, perché con la stimolazione neurale diretta, connettendo il dito artificiale al sistema nervoso, noi abbiamo in qualche modo rispettato il linguaggio naturale. Perfetto. Del sistema tattile della persona. Ecco, il linguaggio naturale la persona Dennis, che ha provato la tecnologia, ha imparato subito a riconoscerla. Ecco, e da questo punto di vista appunto voi avete dovuto prima imparare qual era questo linguaggio naturale, che nel caso del tatto era forse anche meno noto che nel caso di altri sensi come la vista o l'udito. Sì, sensi tipo l'udito e la vista hanno ormai una conoscenza stratificata molto vasta, con una serie anche di premi Nobel che sono stati attribuiti sui sensi. Sì. Chiaramente c'è molto da comprendere ancora anche su quelli, ma sul senso del tatto ancora siamo agli albori, siamo in una fase pionieristica del senso. Ecco, noi quello che abbiamo fatto è quindi ricostruire il linguaggio naturale del senso del tatto in modo da poter rilasciare questi impulsi come se fossero stati rilasciati proprio dai sensori, esatto, dai sensori nervosi naturali della mano. Ecco, attualmente invece quali sono i limiti di questo metodo? Cioè che cosa vi separa oggi da poter veramente applicare in pianta stabile questa tecnologia su una protesi? Questo tema di ricerca delle protesi integrate con il nervo siamo stato ancora preclinico. Noi abbiamo dimostrato la fattibilità di riconoscere delle texture. Ora, andando avanti, proveremo a utilizzare anche altre superfici più complesse, la lana, il cotone, il velluto, e poi in generale a collegare la parte di manipolazione, quindi la parte motoria, con quella sensitiva. In parallelo ci sono altri approcci, ad esempio quelli che prevedono la stimolazione cutanea. Su questo stanno lavorando dei colleghi del mio studio. Cioè invece di stimolare un nervo si stimola la pelle del moncone sostanzialmente. Esatto. E comunque il cervello impara poi ad associare. Esatto, in questo abbiamo un ecosistema fantastico, direi, nel nostro istituto, con una serie di progetti diversificati, questi ad esempio sul Moncone in collaborazione con INAIL, questi altri che abbiamo sviluppato neurali con la Commissione Europea, con Silvestro Miscera che ha coordinato con me lo studio. Insomma, e quindi chiaramente abbiamo delle possibilità diverse, certo, anche con orizzonti temporali diversi, e questa è la ricerca. Ecco, ci dobbiamo fermare qui. Grazie Calogero Oddo, insomma avanti così. Grazie a voi. È tutto, a lunedì.